andata via. Corri con me, anima mia, la vita sai, è difficile, il mondo non si cura di te. Vita vera soltanto qua, questo è il prezzo da pagare per la vita. Ogni volta che ti guardo mi piaci sempre di più, ogni volta che ti guardo sei anche tu. Corri nel vento. Corri nel vento insieme a me, sul mare che lontano andrà, sopra il cielo e la città, su un grattacielo io e te. Ogni giorno sempre in corsa sei. Questa terra, chi lo sa dove andrà? Noi uomini la distruggiamo, ma. Essere felici non è facile, ogni giorno devi combattere la realtà, supera la fantasia, ogni volta che tu parti, tu vai via, ma corri nel. Corri nel vento insieme a me, forse una terra da salvare c'è, forse tu mi sai capire perché. Siamo nel vento.